Italia in controluce. È 9 aprile e questa è la seconda puntata, seconda edizione di Italia in controluce, il programma che scandaglia, che indaga, che racconta l'Italia. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchesi. Oggi è una storia di un bellissimo progetto di parole e suoni dedicato ai ciechi, il tema centrale di questa puntata di Italia in controluce, il reportage di Cristina Carpinelli. DocuSound è un progetto di suoni e parole ideato da una piccola casa di produzione torinese e pensato e realizzato assieme e per la comunità italiana non vedenti. Il senso era quello di raccontare storie per come le sente chi non vede. Come in questo dal titolo Non vedo, quindi ballo. Io dapprima spiego a parole il passo, dopodiché lo faccio sentire su di me, quindi io davanti ad ogni allieva faccio posare le sue mani sui miei fianchi o sulla mia schiena, sul mio petto, a seconda della parte che devo muovere, e quindi eseguo il movimento. E poi come ultima parte loro riproducono il movimento e io, poggiando le mani sui loro fianchi, sul loro corpo, lo correggo e lo guido a seconda di come deve essere fatto il movimento, e funziona. Così. Ancora più indietro rispetto alla linea. Ok, aspetta. Movimento. Così. Okay. Impari ad avere consapevolezza appunto del tuo corpo proprio, a capire che abbiamo un bacino che si può muovere in modo indipendente dalla testa o chissà che. L'idea era semplice: dare il microfono e le cuffie a chi non vede e aspettare e vedere cosa viene fuori. Il lavoro è stato grandioso, i suoni emersi, puliti e davvero incisivi, il ritmo che tiene anche quando si raccontano storie davvero minime ma forti, come quella di queste due ragazzine che stanno per finire le superiori. Una andrà all'università, l'altra no. Hai paura di raggiungere la maturità e perché? No, non ho paura, non vedo l'ora che arrivi perché voglio andare via di qui. Io proprio basta, voglio cambiare. Vabbè. No, se tu vuoi cambiare, io no, io voglio tornare indietro. Ma perché vuoi tornare indietro? Perché non sono stato bene ai miei anni, ai miei vecchi scuole, ai miei vecchi compagni. Ma non sei stata bene con noi? Sono stata bene qui, sono stata bene con le mie compagne. A parte che un po' mi dispiace. E anche a me dispiace di andare via, Sono proprio rimasta male, però. Di cosa? Che finisce? Sì, quello. Quanto abitiamo vicine? Se non vado a vivere in New York. È vero. Forse è più vicino. Dopo la maturità, vai all'università o a lavorare? Allora, all'università non vado proprio perché i miei non mi mandano. Come mai? Perché lì non c'è... Signore del sostegno. Il lavoro, pensato e coordinato da un gruppo di documentaristi, fa capo alla casa di produzione Doc in Progress. Ci racconta così Matteo Bellizzi. Dunque, io ho ideato insieme agli altri miei soci Fabrizio Galvagno e Andrea Vaccari il progetto più di 2 anni fa. Noi siamo una piccola casa di produzione torinese che si chiama Doc in Progress e facciamo documentari. E quindi quando abbiamo iniziato a pensare di realizzare qualcosa anche per i nostri amici non vedenti con i quali stavamo collaborando per altri progetti, abbiamo immaginato appunto questa idea di realizzare dei documentari con lo stesso principio con cui li realizziamo da più di 10 anni, in video anche col suono. E così abbiamo cominciato intanto un dialogo con loro che ci spiegavano come si ascoltano le cose prima di vederle, e poi abbiamo cominciato a pensare di dare struttura a quest'idea, è diventata DocuSound. E i lavori che avete realizzato finora quali sono? Ma dunque, io mi sono occupato poi come regista, appunto ho cominciato con le cuffie e il microfono ad andare in giro e ho cercato di riraccontare la realtà partendo appunto dal suono, e sono partito da una storia che in realtà con la telecamera non sarei riuscito a raccontare, perché è una storia legata al carcere minorile Ferrante a Porti, di Torino, e ho iniziato proprio da lì, anche grazie allo scrittore Fabio Geda, che ci ha dato un accesso privilegiato a un suo progetto che aveva insieme al Salone del Libro proprio in carcere. Quindi questo accesso, a partire dal suono, a partire dall'ascolto delle voci, delle testimonianze, delle storie dei ragazzi minori in carcere, ha acceso la voglia di continuare. Questo è il suono della porta, della scuola, dell'attività, anche per andare ai passeggi. Questo è il suono della sigaretta quando andiamo nel pensatoio. Il pensatoio è questa finestra che vede alle nostre spalle. Vediamo aria che trasmette angoscia, sinceramente. Sono nomade, volgarmente chiamato zingaro. Sono ospitato qua al Ferrante perché ho fatto un reato da minorenne e sono venuti a casa, mi hanno preso e mi hanno portato qua al Ferrante. Io lavoravo fuori, c'è il mio lavoro, non è un granché, però c'è un lavoro. Non ho studiato perché non avevo possibilità di studiare. Io, essendo figlio unico, non potevo accettare che mia madre già facesse due sacrifici, prima di mantenerci a noi e anche la scuola. Ho preferito dare una mano in casa, andare a rubare, a fare queste cose qua per portare, diciamo, il pane a casa. Io l'altro anno mi avevano arrestato e so ero qua al colloquio, poi è venuta la mia ragazza e mi ha dato questa notizia che era incinta. Mi sono fatto 4 mesi, sono uscito con una messa alla prova. Quando sono uscito andavo a scuola, facevo dei lavoretti per il prete lì dove mi avevano dato la messa alla prova. Quanti anni hai? Io 17, quasi 18. Poi a febbraio, no, a novembre è nata mia figlia. Non puoi spiegare come. È una cosa bella, bella. La prima persona che si può dire, io ero lì quando è nata proprio, ero vicino. Poi ho fatto una cavolata e sono ritornato qua. Non ho fatto scuola perché non mi hanno accettato. Come sai, io qua ho iniziato in questo carcere a fare scuola, non ho mai fatto scuola. E spero che andrò bene e sopporterò il maestro. Come hai imparato a leggere e a scrivere così bene, per esempio? Ma dagli amici. Così mi impegnavo perché ho ritenuto che questa cosa mi serve nel futuro, leggere e scrivere. Beh, me la sono presa. Ho fatto anche l'altro, anche su questa cosa qua. Non sono andato a seguirla, però l'ho accolta così. Per Matteo Bellizzi la scoperta del suono è una novità forte. L'impressione è sempre quella che, avvicinandosi di più a chi non è uguale a noi, si impari sempre tanto. Abbiamo anche insegnato ad alcuni non vedenti a realizzare autonomamente dei documentari sonori, e questa è una cosa che ci riempie di grande gioia, perché era la forte ambizione che avevamo, anche un po' una piccola utopia che avevamo, di dare gli strumenti per realizzare un racconto autonomo delle cose che circondano la vita anche dei non vedenti. E sono già, diciamo, ascoltabili questi lavori? Li avete già messi online o ancora ci state lavorando? No, questi lavori del laboratorio DocuSound Lab di Milano sono già online e sono stati laboratori aperti sia a vedenti e non vedenti, che hanno lavorato insieme, a volte anche in troupe miste, cui si sono dati tutti una mano, e sono già online. Per esempio, un episodio abbastanza emblematico, una di queste ragazze che ha raccontato il suo cane guida, ha fatto un ritratto del suo cane guida solo attraverso i suoni, i suoni della giornata, delle passeggiate, della tappa, eccetera. Questo è ascoltabile, si chiama Vita da cani guida. Dammi la zampa, dammi la zampa, dammi, dammi la zampa. Bravissima. Brava. Questa è Tina. Ha 7 anni. È il mio cane guida ormai da circa 5 anni e mezzo. Prima aveva un altro nome, si chiamava Contessina. torniamo domani alle 6.30 su Radio 24. Vi saluto qui, Daniele Biacchese.